è solo una scelta libera della coppia di dire non abbiamo niente da dividere più, né amore, amici, né come altro, prima. Come si dice, amici come prima. Esatto, mi costa, però cantavano anche Paola e Chiara, mi costa una fortuna, non me lo ricordo. Come prima, mi costa una fortuna riuscire ad ammettere che non sono ancora pronta a divorziare da te, te lo dico già, Edoarda, davanti a queste 3-4 persone che ci ascoltano. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Che anno è? Che giorno è? Questo è il tempo di vivere con te. Allora, iniziamo con i giardini di marzo. Hai visto dove ti ho portato per concludere questo mese di marzo di Cuore e denari, Nicoletta? Mi piace molto, ho apprezzato il tuo gesto, il tuo pensiero. Dopo Vivi Italy dovevo naturalmente mantenere una certa qualità delle nostre trasferte. Sai che io mi fido e mi affido e non sbaglio. Potremmo chiamarlo il giardino del risparmio, l'Università Bocconi che ospita questa sesta edizione del Salone del Risparmio. Siamo qui allo stand M12, se siete nei paraggi venite a farci un saluto da oggi fino a venerdì. Si incontrano qui i più importanti attori di questo mercato per confrontarsi, formarsi, valorizzare il proprio bagaglio di conoscenze, ma il salone non è pensato solo per gli addetti ai lavori, è aperto anche a famiglie e studenti che vengono qui per parlare di risparmio, partecipare ad incontri, appuntamenti e conferenze e migliorare magari la loro preparazione. Ci siamo anche noi di Cuore e Denari con 3 puntate speciali. Oggi iniziamo con un viaggio nelle diverse età della vita. Ogni età si presta ad uno stile, ad un concetto diverso di risparmio, perché cambiano le energie, le esigenze, i progetti e anche le condizioni di vita. È vero al tempo stesso che c'è un risparmio per tutte le età. Ne parleremo nella prima parte della puntata. Ma anche nella parte di cuore parleremo di età, Deborah. Parleremo infatti di età anagrafica e di età biologica. Sono due indicatori diversi e non sempre coincidono. Sicuramente avete un amico, un collega, un conoscente che appare più vecchio o più giovane rispetto alla sua età anagrafica, e sono certa che abbiate avuto occasione di incontrare persone avanti negli anni con un fisico e una vitalità da trentenni, agili nel corpo e nella mente, o di imbattervi in una situazione esattamente opposta. I geni sicuramente, e lo sappiamo bene, fanno la loro parte, ma c'è dell'altro e lo scopriremo nel corso della trasmissione. Intanto all'800 24 00 24 chiamateci per dirci che età avete, che età vi sentite e quanti anni vi danno. Investire informati. Allora, intanto chiariamo ai nostri ascoltatori, non vi siete confusi, non è giovedì, non sono le 11.45, sentiamo però comunque la nostra sigla della nostra rubrica Investire Informati, la sentiremo sempre in questi 3 giorni, perché questi appuntamenti al Salone del Risparmio non saranno altro che spazi speciali di Investire Informati che ne mantengono però gli stessi obiettivi, parlare di risparmio a tutti in modo chiaro, semplice, rispondendo alle vostre domande, evidenziando anche quegli aspetti della finanza personale, ma anche delle notizie di più ampio respiro che leggiamo sui giornali e che toccano da vicino tutti noi. Per questo motivo le nostre linee sono già aperte, anche se siamo in trasferta. 800 24 00 24, aspettiamo i vostri interventi. Adesso vi anticipo invece il tema sul quale faremo il nostro focus del risparmio stamattina. Il tema con il quale vogliamo inaugurare la nostra presenza qui al Salone, che vi anticipavamo in apertura, può magari dal punto di vista concettuale apparire, come dire, poco rilevante, ma a molti, come dire, magari possono anche non riuscire a cogliere la rilevanza pratica. Parliamo di stile di investimento in relazione all'età del risparmiatore o della risparmiatrice. È chiaro che le nostre disponibilità finanziarie sono diverse a seconda del punto in cui ci troviamo nella nostra vita anagrafica e professionale, quindi è naturale che a 30 anni dobbiamo fare scelte diverse di quelle che potremo fare a 45 o a 65 se siamo già in pensione, no? Nicoletta, che dici? Ma voi quando non è mai peso... troppo tardi, però, questo mi vuoi intanto dire. Non è mai troppo tardi, però chiaramente il peso che va dato ad ogni scelta è certamente diverso. Voi quanto peso date alla vostra età quando discutete di una scelta di risparmio con il vostro consulente, il vostro interlocutore? Ci sono momenti specifici in cui le scelte di risparmio vanno considerate e riconsiderate? Ogni quanto va fatto un punto della situazione anche dettagliato con il nostro consulente? Noi abbiamo il piacere stamattina di avere un ritorno con noi per parlare di tutto questo ed è pronto a inaugurare la presenza di Radio 24 qui al Salone del Risparmio Ugo Loser, amministratore delegato di Arca SGR. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Ho fatto un preambolo lunghissimo, però il tema volevo che i nostri ascoltatori lo comprendessero a pieno. Per cui, se avete delle domande su questo argomento, 800 24 00 24, più che delle domande, raccontateci qual è il vostro approccio al risparmio a seconda proprio dell'età anagrafica in cui vi trovate in questo momento. Dottor Loser, però volevo partire con lei sul tema della definizione di stile di investimento, no? Perché c'è lo stile di investimento del professionista, però c'è anche quello del risparmiatore finale, no? Quali sono le differenze fra i due concetti? Ma in realtà non ci dovrebbero essere differenze. Il professionista è qualcuno che consegna al risparmiatore finale la soluzione all'obiettivo del risparmiatore finale. Quindi il risparmiatore finale si pone degli obiettivi, va dal professionista, il professionista cerca di raccomandare una soluzione per questi obiettivi. Allora, è scontato dire che abbiamo fatto prima degli esempi di età e di relative scelte di investimento, no? Una scelta che si fa a 30 anni quando magari a malapena si è entrati nel mondo del lavoro stabilmente, magari si può solo iniziare ad accumulare qualcosa, è una scelta radicalmente diversa di quella che si può fare a 65 anni, quando magari si ha la fortuna di andare in pensione, di godersela, magari si può contare anche su un buon TFR, una buona uscita, magari si può contare anche su una rendita da fondo pensione che negli anni si è riusciti ad accumulare, magari si ha anche una casa di proprietà su cui non pende più nessun mutuo. È chiaro che qui, a questa età, magari l'obiettivo non è più accumulare ma forse conservare, o forse anche, dottor Loser, anche un po' decumulare, no? Con intelligenza, per mantenere un certo tenore di vita. Fra questi due estremi, fra il trentenne e il 65enne, c'è una miriade di casi naturalmente possibili. Lei ha dei profili in testa che potrebbe indicarci come tra i più significativi? Ma sicuramente partiamo dai due estremi e poi chiaramente tutti gli altri sono una combinazione dei due. Intanto, più che un tema di età anagrafica, in questo caso è un tema di obiettivi del risparmiatore. Noi possiamo andare da un livello molto semplice di conservare, chiamiamolo, il potere d'acquisto dei soldi che vado a risparmiare, quindi oggi voglio comprarmi una bicicletta, non la compro oggi, me ne ho bisogno, voglio comprarmela domani, metto via i soldi e devo essere in grado di sapere che il mio risparmio mi consente di comprare la bicicletta domani che non ho comprato oggi. Quindi, certo, se il prezzo della bicicletta aumenta, io devo avere un rendimento che mi consenta di matchare l'incremento del prezzo della bicicletta. È chiaro che invece, se vado a guardare nel lungo periodo, io accumulo dei risparmi per garantirmi un certo tenore di vita uguale a quello di oggi, però nel futuro. È chiaro che il tenore di vita dipende moltissimo da quello che è l'evoluzione del tenore di vita generale della società in cui vivo, e quindi non è più semplicemente l'aumento del prezzo di un singolo bene, ma la composizione del paniere di consumo che ogni soggetto ha a disposizione. E ritornando all'esempio della bicicletta, è chiaro che se proietto, no, l'orizzonte temporale su orizzonti lunghi di 30-40 anni, è chiaro che invece di avere la bicicletta voglio avere l'automobile, e quindi devo fare degli investimenti che mi consentano, certo, non di comprarmi la bicicletta ma l'automobile. Tra l'altro sto notando già dalle anticipazioni delle domande che ne stanno arrivando dai nostri ascoltatori all'800 24 00 24 che molte persone raccontano di sé di età anagrafica di un certo tipo, ma di testa di sentirsi in tutt'altra condizione, quindi molto più giovani, e che sa se questa anche lucidità mentale che hanno la trasferiscono nelle scelte di risparmio e di investimento, appunto perché naturalmente oggi abbiamo certo esigenze molto diverse anche in proiezione, in prospettiva, rispetto a quelle che avevano i nostri genitori. Se volete, fate anche con noi una considerazione su questi argomenti. Peraltro, dottor Lose, mi piacerebbe capire quanto è rilevante per una società come la vostra, come Arca SGR, che confeziona e poi distribuisce attraverso vari canali fondi comuni di investimento, avere un monitoraggio anche anagrafico dei propri sottoscrittori di fondi. Noi proprio nella puntata fatta di Investire Informati della settimana scorsa con Fabio Galli, direttore generale di Assogestioni, che probabilmente in questo momento sta partecipando all'assemblea plenaria con il ministro Padoan, parlando anche del risparmio di giovani generazioni, abbiamo detto che fondamentalmente il sottoscrittore tipico di un fondo di investimento è il papà, quindi non so, tra i 40 e 50 anni, 55. Voi che sottoscrittore tipo avete? Ma noi abbiamo monitorato chiaramente molto attentamente questa che quella che è la nostra base di sottoscrittori e la sua evoluzione. Noi siamo stati tra i primi a lanciare i fondi di investimento comuni in Italia. Nel 1984 abbiamo appena festeggiato i 30 anni dei primi fondi lanciati sul mercato, e questo ci ha consentito di monitorare su un orizzonte di 30 anni quella che è stata l'evoluzione della base dei sottoscrittori. Con nostra sorpresa, devo dire, in realtà molti dei sottoscrittori originali di questi fondi 30 anni fa, nel settembre 1984, sono tuttora sottoscrittori dei fondi. Quindi l'orizzonte temporale che emerge dalla nostra analisi è un orizzonte molto lungo, e c'è una certa, diciamo, stabilità nella base dei sottoscrittori, che nel nostro caso, proprio perché probabilmente abbiamo distribuito i prodotti prima degli altri, è sicuramente una base di sottoscrittori molto più attempata di quella che descriveva molto più il signor cosa Galli. Cosa intende lei per attempata? Nicoletta Giarra lì pronta con la tua base. Diciamo, abbiamo una mediana dei sottoscrittori, cioè il 50% dei sottoscrittori nostri sono oltre i 60 anni come età. Secondo lei perché c'è un approccio più consapevole rispetto a questo strumento di investimento? Il trentenne non ha magari la risorsa finanziaria, lo dicevamo anche all'inizio, per cominciare a pensare ad una storia potenziale di accumulo del proprio risparmio magari attraverso uno strumento di investimento come questo? Ci sono esigenze diverse? Qual è oggi magari il distacco che un giovane può avere rispetto ad una soluzione di investimento di questo tipo? È un problema solo legato proprio alla disponibilità finanziaria? Credo che ci sia un tema di disponibilità finanziaria e un tema di approccio culturale al tema del risparmio. È chiaro che nella misura in cui il grosso dei risparmi io li accumulo quando sono verso fine carriera, è chiaro che in quella situazione vado a sottoscrivere i prodotti finanziari. Dall'altro lato è chiaro, nella misura in cui io non ho bisogno di risparmiare perché ho un profilo previdenziale garantito, per cui avrò una pensione sicura e un TFR sicuro, certo, su cui poter contare, non vedo perché privarmi di un certo livello di tenore di vita per risparmiare, a meno che non ci sia veramente un'incertezza sul futuro. È chiaro che adesso sia le riforme previdenziali sia la crisi finanziaria hanno accentuato il tema sia del risparmio, diciamo, per eventi non previsti, sia la necessità di integrare la pensione, per cui è chiaro che le nuove generazioni si sono affacciate al tema del risparmio con più enfasi e con maggiore numerosità. Allora, abbiamo detto anche probabilmente in altre puntate, sono assolutamente certa che nonostante li si dipinga qualche volta un po' come superficiali su questi argomenti e disinteressati, in realtà c'è grandissima sensibilità da parte delle giovani generazioni al tema del risparmio, al tema del loro futuro, e il tema è poterli anche accompagnare e dare loro anche la possibilità affinché si possa cominciare a costruire qualcosa in questo senso, perché c'è tutto l'interesse. Molto spesso il dottor Loser lo fa, cominciano i genitori per loro, vero? Guardi, credo che uno dei temi importanti che emerge dall'evoluzione della crisi finanziaria dei mercati negli ultimi anni è che da un lato il mattone, che era l'ancora di salvezza a cui molti si agganciavano per garantirsi il loro futuro, si è dimostrato diciamo un investimento non privo di rischio. I prezzi dei mobili sono scesi come quelli delle attività finanziarie, e quindi la necessità di diversificazione per garantirsi il tenore di vita è stata recepita ed entra oggi nella nostra, diciamo, bagaglio culturale. Dall'altro lato è chiaro che il mondo a cui si guarda oggi è un mondo rovesciato. Fino a prima della crisi finanziaria e fino direi prima del quantitative easing, no? della manovra Banca Centrale, noi avevamo tante attività che avevano rendimento ma non avevano rischio. Adesso il mondo si è ribaltato e per cui abbiamo tante attività che hanno rischio ma non hanno rendimento. Beh. E quindi bisogna muoversi in un mondo di professionisti, chiaramente, dove il fai da te diventa molto difficile. Guardi che bel gancio che ci ha dato alla domanda di Andrea da Torino, non so se l'hai che vista. L'ho intercettata, l'ho letto all'anticipazione, allora non resta che salutarlo e dargli il benvenuto. Buongiorno Andrea. Buongiorno signore, innanzitutto io dico che voi siete le mie muse, tanto per cominciare. E noi abbiamo fatto giornata, come si dice. Grazie Andrea, guardi. Ci carica anche un filino di responsabilità, però se proprio ci vuole mettere su questo Olimpo, su questo piedistallo, noi ci stiamo ben volentieri. Bene, bene. Andrea, cosa ci racconta? Perché non viene da Torino a farsi una gita domani e dopodomani qui al Salone del Risparmio? Con un'oretta volentieri. Qua, viene a salutarci. Viene a vedersi volentieri tutti gli stand, a vedere un po' che soluzioni anche ci sono nuove. Se posso, ma credo che a causa di una serie di impegni di lavoro improrogabili proprio non posso. Però è come va bene, se rimarrà un amore platonico, sì, quello esatto, per lei, sì, sì, tra noi. Va bene, ma ci bene dica così. Pure Andrea, cosa voleva? Allora, io volevo semplicemente dire questo. Io ho 45 anni. Risparmio da quando ne ho più o meno 20. Ho provato tutta una serie di gestori che mi hanno proposto tutta una serie di soluzioni che sembravano veramente il non plus ultra. Poi a un certo momento mi sono stufato perché i rendimenti assolutamente non erano soddisfacenti, cioè assolutamente non in linea, ma nemmeno con quelle che erano le performance dei mercati in tempi anche pre-crisi, dove si poteva veramente guadagnare. Allora ho iniziato a documentarmi, ho studiato, ho fatto varie cose e alla fine mi sono messo a fare per conto mio, ma investendo su una serie di gestioni patrimoniali, molto ben diversificate, partendo dai titoli di Stato, arrivando fino alle azioni, e facendo io sto ottenendo da solo dei risultati che i promotori finanziari che ho conosciuto non sono riusciti a darmi. Ad offrirle. Esatto. Allora Andrea, magari qua bisogna anche, da quello che capisco comunque Andrea è una persona molto ben documentata e formata e probabilmente anche con delle aspettative abbastanza significative che aveva chiesto ai consulenti ai quali si era rivolto. Magari ci dà anche l'occasione alla domanda di Andrea, dottor Loser, se abbiamo ancora un paio di minuti prima dei mercati, per spiegare, visto che ha citato proprio l'universo delle GPM, delle gestioni patrimoniali, se lei ci può fare un piccolo ABC di questa modalità per gestire il proprio risparmio. Poi andremo alle scelte di Andrea per capire dove sono condivisibili e dove invece per lei magari non lo sono. Beh, innanzitutto, se ho capito bene, le gestioni patrimoniali non sono un fai da te. Le gestioni patrimoniali sono a delegare a dei professionisti le scelte di investimento sulla propria liquidità. Io cito solo un dato. Noi abbiamo un numero di strumenti singoli finanziari, singoli titoli e singole azioni da comprare, che sono una frazione probabilmente del numero di prodotti finanziari che noi possiamo comprare. Quindi il numero di prodotti finanziari sono un multiplo dei singoli titoli. È chiaro che districarsi all'interno solo di queste dimensione presuppone delle capacità di ricerca, di strutturazione, di gestione dinamica e monitoraggio del rischio che non sono a disposizione di nessun privato, indipendentemente dal suo livello di istruzione e competenze. Informazione, certo. E insomma, comunque il nostro amico Andrea ha fatto questa scelta, non era contento, ci sono dei clienti che sono perennemente insoddisfatti, c'è chi invece condivide i propri obiettivi fino in fondo con il proprio consulente, questo è in grado di accompagnarli in ogni scelta e si sente anche soddisfatto, fra casi naturalmente estremi, come dicevamo prima all'inizio, considerando l'età ci sono naturalmente tante situazioni possibili, ci sono anche dei momenti di insoddisfazione, certo che gli ultimi anni sui mercati finanziari hanno lasciato con la bocca asciutta molte persone, consulenti e gestori professionali compresi. Cuore e denari. Quanti anni hai stasera? Quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? E voi, quanti anni vi date, canta Vasco Rossi? Ce lo chiediamo e ve lo chiediamo anche oggi. Scambiamoci questa informazione all'800240024, un'occasione oggi per parlare di età anagrafica e di età biologica. Proveremo a misurarla, parleremo anche di test, ma intanto partiamo da una bella stretta di mano come quella che si scambiano le tante persone che oggi sono venute al Salone del Risparmio, alla Bocconi di Milano, ci siamo anche noi, quindi venite a trovarci, e questa è un'occasione di incontro, di aggiornamenti, di relazione anche nell'era della tecnologia, lo sappiamo bene, la stretta di mano resta sempre il modo migliore, più semplice, diretto di mettersi in contatto con l'altro, ma attenzione a come stringete la mano, perché la stretta di mano potrebbe nascondere più informazioni rispetto a quanto si possa immaginare. Secondo uno studio pubblicato su PLOS ONE, che è una rivista scientifica molto prestigiosa, dalla forza della stretta di mano si può capire quanto sono stati rapidi i processi di invecchiamento. Quindi Deborah, mi raccomando, dai, tante persone che ti stanno venendo a trovare, ci stanno, sì, venendo ma a trovare, se, e che tu giustamente mi presenti, perché è tutto il mondo dei denari, sì. Mi raccomando, noi stringiamo forte la mano, vigorosamente. Ottimo. Quindi salutate qualcuno e fateci caso e intanto chiamateci, ma vi suggerisco un altro semplicissimo test che secondo alcuni autori potrebbe dare indicazioni riguardo alla buona capacità di controllo del proprio corpo. Bisogna sedersi, poi alzarsi, camminare per circa 3 metri, girarsi, tornare indietro e sedersi nuovamente, il tutto in 15 secondi. Questo è il tempo che secondo i ricercatori dovremmo impiegare e non superare per dimostrare di avere un buon controllo. Anche questo è un indicatore che ci aiuta a capire se portiamo bene i nostri anni, si dice così, no? Perché tutti noi sappiamo che tra età biologica ed età anagrafica possono esserci delle differenze. Allora, chiamateci, diteci come, quanti anni vi sentite, quanti anni avete, ma anche quanti anni vi danno, e noi cercheremo con il nostro ospite, la professoressa Lucini di Humanitas, che arriverà a trovarci tra poco, di cercare di fare combaciare questi due indicatori, insomma di portarci bene gli anni che abbiamo sulla nostra carta d'identità. 800 24 0024, iniziate a prenotare i vostri interventi. Investire informati. La sigla di Investire Informati ci farà compagnia per queste 3 giornate insieme in diretta dal Salone del Risparmio. Noi stiamo proseguendo la nostra chiacchierata grazie anche ai tanti stimoli che ci stanno arrivando da parte vostra, l'800240024, con Ugo Loser, amministratore delegato di Arca SGR. Stiamo commentando e analizzando un tema decisamente ampio, l'età del risparmiatore e lo stile dell'investimento che deve essere adottato a seconda dell'età anagrafica. Dall'aggressivo trentenne al più prudente sessantenne, anche se in realtà possono anche capovolgersi poi queste situazioni, a tutti i casi intermedi che possiamo considerare. Ci sono molti messaggi molto interessanti che adesso leggeremo. Intanto Karin su Facebook, che potete raggiungere attraverso il nostro nuovo sito di Radio 24, ci scrive: oggi è difficile investire per i giovani, alla mia veneranda età, Karin, lei sarà certamente giovane e molto attiva, investo in esperienza, dice, investo in pacchetti di aziende farmaceutiche diverse, perché la gente, senti che ascoltatrice di Cuore Denari, preferisce imbottirsi di farmaci invece di cambiare stile di vita, sempre in attesa della pillola miracolosa panacea universale. Con affettuosi saluti ad entrambe. Quindi insomma raccogliamo questa considerazione. Valeria ci scrive invece, tu preparati con Giuseppe, perché sì, è molto carino, sono entrata in un fondo 30 anni fa, sono molto soddisfatta della professionalità del mio promotore finanziario e dei risultati ottenuti. Qua bisogna essere soddisfatti anche del gestore di questo fondo, dottor Loser, perché il promotore finanziario ha avuto certamente la lungimiranza, un po' anche di fortuna, di poter suggerire naturalmente un buon prodotto e probabilmente un fondo che è stato gestito molto bene in 30 anni. Chissà se sarà stato sempre il solito gestore. Chissà. In 30 anni, secondo lei, di investimento ogni quanto bisogna fare la manutenzione del proprio pacchetto investito, dottor Loser? Ma credo che la manutenzione sia molto importante. Da un lato è chiaro che gestori come noi, che hanno una clientela retail, che non ha un portafoglio di fondi e non hanno la capacità di essere proattivi nel riallocare i propri portafogli, sono soggetti attivi e quindi noi cambiamo il profilo del fondo a seconda delle condizioni di mercato per venire incontro alle esigenze degli investitori. Alternativamente è chiaro che gli investitori si devono porre il problema di verificare la coerenza tra il portafoglio che hanno in essere e gli obiettivi di investimento che si sono posti. C'era, sì, volevo leggere il messaggio che ci è piaciuto molto, perché è un messaggio alla Cuore Denari, ce lo scrive Giuseppe al 349-238-6666, all'anagrafe 63, quindi anni, il fisico 50, entusiasmo 35, gli investimenti mura e previdenza, quindi in un messaggio ha veramente unito e fuso i due temi di Cuore Denari di oggi, quindi un bel libro. Esatto, no, arriva. Esattamente, tra l'altro la previdenza, soprattutto quella complementare, è un tema molto caro anche in casa Arca SGR, un tema al quale dovremmo tutti quanti pensare, non solamente per dare una risposta a quell'ovvia considerazione che tutti facciamo in questo particolare frangente: nessuno di noi prenderà mai la pensione pubblica, non la prenderemo non perché qualcuno ci vuole fare un dispetto, ma perché viviamo tutti più a lungo e quindi le risorse che prima erano disponibili per meno persone adesso devono essere spalmate su una platea più ampia e direi anche per fortuna. Come state gestendo un po' questa operazione? Tra l'altro adesso ad aprile partirà il TFR in busta paga, dottor Loser, e magari non saranno molti, ma un po' di lavoratori sospenderanno il piano di versamenti ai fondi pensione precedentemente sottoscritti. Secondo lei questo momento come va affrontato? Credo che questo sia oggettivamente un errore. Noi abbiamo la necessità di accumulare dei risparmi per integrare la nostra pensione, non possiamo pensare di contare solo sulla pensione pubblica per mantenere il nostro tenore di vita. È chiaro che versando costantemente e diligentemente tutti gli anni ci immunizziamo in qualche modo da quelle che sono le oscillazioni dei mercati. Chi avesse continuato a comprare la borsa anche durante la crisi finanziaria tutti gli anni sistematicamente oggi avrebbe un rendimento decisamente interessante e sicuramente molto positivo. Chi invece cerca di fare il mordi e fuggi, la compra nel 2007 seguendo l'emotività e poi il mondo si schianta, la vende ai minimi, per distrugge valore. Quindi l'approccio previdenziale che prevede un pensionamento costante lungo la vita lavorativa è una garanzia di poter oggettivamente immunizzarsi dall'andamento dei mercati. Questa sua considerazione sull'operazione TFR in busta paga la vorrei mettere insieme a quello che sta dicendo proprio in questi minuti dalla sala plenaria qui vicino il ministro delle finanze Padoan, perché dice vi leggo una dichiarazione proprio che sta arrivando dalle agenzie: il processo di allocazione del risparmio, auspica il ministro, deve in questa fase rivolgersi verso forme più rischiose in senso positivo. Occorre promuovere maggiormente lo sviluppo del mercato finanziario verso forme più remunerative. Per fare questo occorre accrescere il livello di alfabetizzazione, cultura, consapevolezza finanziaria, mentre dal lato dell'offerta occorre avere strumenti finanziari diversificati. Dobbiamo ampliare ulteriormente l'offerta dei prodotti finanziari, dottor Loser? Mi pare curiosa questa osservazione, così come anche ampliare, dice lui, verso forme più rischiose in senso positivo l'allocazione del risparmio. Poi non ci sono le idee chiare sul tema del TFR e dei fondi pensione. Non lo so se ci sono proprio le idee chiare in questo momento su cosa fare del risparmio degli italiani. Credo che invece il ministro Padoan abbia le idee molto molto chiare e condivisibili su questo tema. Il ministro Padoan sta dicendo che siamo in una fase in cui siamo passati da un mondo con rendimenti senza rischi a un mondo con rischi senza rendimenti, e quindi alla fine è necessario indirizzare i propri risparmi verso un mondo rischioso in senso buono, ma quello che garantisce la crescita economica e quindi il ritorno per gli investitori, astenendosi dal sottoscrivere di fatto i titoli di Stato a breve periodo che sono di fatto sottoscritti dalla Banca Centrale a rendimenti nulli o addirittura negativi. È chiaro che indirizzarsi verso forme rischiose e illiquide non può essere un processo in mano ai singoli sottoscrittori, ma i prodotti finanziari oggi disponibili devono essere modificati per consentire un accesso efficiente ed efficace a queste forme di investimento a tutti gli investitori e tutti i sottoscrittori. E in particolare c'è la norma per i fondi pensione che, se da un lato disincentiva l'accumulo col TFR in busta paga, dall'altro detasserà gli investimenti dei fondi pensione nell'economia reale, in modi, in tempi ancora da stabilire, che però è un chiaro messaggio al fatto che è opportuno e ragionevole ad oggi andare verso questi tipi di investimenti che sono rischiosi in senso buono. Work in progress, come si potrebbe dire. Io direi che a questo punto possiamo andare a sentire suggerimenti per chi è in viaggio. Chiedo un minuto di pazienza al dottor Loser, solo perché, per lanciare poi la dottoressa Lucini, vorrei provocarlo un po' su questa ricerca che ci hanno portato, che è molto interessante. Segnalo solo Davide da Ivrea, perché poi gli ascoltatori che investono in ETF, che sono strumenti diversi dai fondi di investimento, pensano sempre che non vogliamo mai citarli, che su questi strumenti non andiamo. Invece Davide, le dico che abbiamo già delle puntate in programma anche su questo argomento, e insomma tante osservazioni anche sul tema del risparmio. Ci fa piacere, ma potete continuare a scriverci anche nei prossimi giorni.